odiarsi, prima salutarsi e poi ignorarsi, complice rivali. Non ci sono santi in paradiso per quelli come noi, non ci sono luci in questo cielo e tanto meno eroi, e tanto meno eroi. Sei il frutto del mio albero, la mia eterna vitalità, sei il mio modo di essere, l'incompresa mia felicità. Non ci sono santi in paradiso per quelli come noi, non ci sono luci in questo cielo e tanto meno.